Abbiamo parlato del Mashiva Ruach, che si dice nelle formula invernale, abbiamo parlato della richiesta della pioggia, Veten Talumatar, e le varie situazioni, come potete sentire nelle lezioni precedenti, quando ci si potrebbe sbagliare, dire in inverno la formula estiva e viceversa, oppure non dirla per niente, eccetera, come bisogna comportarsi. Per ciò che riguarda invece l'aggiunta di Ya'alev Yavo, l'aggiunta di Ya'alev Yavo è l'aggiunta nella quale durante la Amidah, lo si fa anche nella Birkat Hamazon, ma qui stiamo parlando della Amidah, durante la Amidah, nella Berakha precedente il Modim, che si chiama la Avodah, è la Berakha nella quale chiediamo che HaKadosh Baruch Hu accetti il nostro servizio, la nostra Avodah, si aggiunge il ricordo del giorno festivo, quale Rosh Chodesh o Chol HaMoed, quando parliamo dell'Amidah del giorno feriale, o anche di Moed stesso. Rosh Chodesh o Chol HaMoed, effettivamente. Ora, la Halakha dice così, Shachach, se una persona si è dimenticata, e non ha detto Ya'alev Yavo, Be Rosh Chodesh, se si tratta di Rosh Chodesh, se si tratta di Rosh Chodesh, Be Shacharit o Be Mincha, allora bisogna vedere in quale tefilah l'ha dimenticato quando è Rosh Chodesh. Se è la Amidah della mattina Shacharit, o se è la Amidah del pomeriggio Mincha, oppure se Chol HaMoed in qualsiasi Amidah che sia, tutte e tre, ube Chol HaMoed ben be Shacharit, ben ba Mincha, ben be Ma'ariv, Arvit, e la persona si dimentica di dire Ya'alev Yavo. Allora, la Halakha dice così. Im nizkar kodem she'amar yu l'eratzon, se ha proseguito nella sua Amidah e se ne è accorto di questa dimenticanza, prima di aver concluso quasi la Amidah con il versetto Yiyu l'erazon imrei fi, a quel punto Choser umatril retze, torna indietro alla Berakha in cui si aggiunge Ya'alev Yavo, cioè retze Hashem Elokeinu Bamcha Yisrael ve li tefilatam she'e ve ashev avodah e recita Ya'alev Yavo e continua la Amidah. Ma questo in quali di quei casi che hai detto? Se in tutti i casi, a parte, eccezione, Arvit di Rosh Chodesh. Qualsiasi momento in cui si dice... Allora, questa regola che stiamo dicendo adesso si applica a qualsiasi momento in cui si dice Ya'alev Yavo nell'Amidah, tranne che il caso di Arvit di Rosh Chodesh. Ok? Ora vediamo. Afilu im nizkar kodem sheitchil modim. Anche se ancora prima di iniziare Modim, quindi la Berakha successiva a Retze, si è ricordato già, si è accorto, che Ivan Shesien Birkat Hamachazir Shechinato Lezion, visto che ha già comunque concluso la Berakha precedente, che conclude con Hamachazir Shechinato Lezion, non può dire Ya'alev Yavo in quel punto, deve tornare a Retze, quindi ripetere l'ultima Berakha e dire Ya'alev Yavo nel punto giusto. Tzarich le'atchil retze. Ma se si è ricordato, si è accorto, achim nizkar kodem birkat ha'machazir shechinato l'etzion, se si è accorto prima di concludere Baruch Ata Hashem ha'machazir shechinato l'etzion, quindi non ha ancora concluso la stessa berakha nella quale si aggiungerebbe in realtà Ya'alev Yavo, allora recita Ya'alev Yavo in quel punto in cui si è ricordato, e poi torna a dire v'techezena enenu b'shuvcha l'etzion berachamim e conclude la berakha. Ci siamo? Omerosham, umesayem e conclude vetechesena inenu. Cioè si è accorto prima di dire Baruchat Hashem, amachazir shechinato, quindi quella stessa berakha nella quale si dice Ya'alev Yavo, non torna, deve dire in quel punto Ya'alev Yavo, perché ancora non ha concluso la berakha, anche se non è al punto esatto, ma ancora non ha detto Baruchat Hashem per concludere. Dopo che ha detto Ya'alev Yavo, torna un po' indietro e conclude la berakha di nuovo, vetechesena e neno veshuvecha, e poi conclude la berakha completamente, amachazir shechinato lezion. Ok? Bene. Allora, se mi date il libro della tefila, lo faccio vedere meglio. Allora, abbiamo una berachà dell'Amidah che è... Guardate, Retze Hashem Elokeinu Bamcha Israel. Durante questa berachà, quando si arriva al punto Utehil Ratzon Tamid Avodat Israel Amecha, a quel punto, se fosse Rosh Chodesh, si inserirebbe il Yalev Yavo. Se tu non l'hai inserito e hai continuato a pregare, hai detto Vetechezena Inenu Beshuvcha Letzion Berachamim Veli Rushalayim Irach Berachamim Kemeaz, oh, non ho detto Yalev Yavo. Lo dici qui a questo punto, dove sei arrivato. Yalev Yavo, e poi ripeti di nuovo Vetechezena Inenu e concludi la Berachah Baruch Atah Hashem Achzir Shechinato Berachamim Shechinato Letzion. Tutto a posto. Se invece ti sei accorto dopo che hai detto questa berachà, in qualsiasi punto fino a Yiyul Eratzon Imrefi, allora torni all'inizio della berachà di Retze. Se invece quello che diremo adesso, se invece ti ricordi dopo, ti accorgi dopo Yiyul Eratzon Imrefi, quindi è dopo la conclusione ufficiale della Midah, cosa devi fare? Devi ripetere tutta la Midah. Questo in tutti i casi in cui c'è il Yalev Yavo, a parte l'Arvit di Rosh Chodesh. Sì? Quando, nell'ipotesi, nel caso che uno è alla fine, è arrivato alla fine, quindi riprende da Retze, poi va avanti ancora fino alla fine? Sì. O quando è detto Yalev Yavo? Va avanti ancora fino alla ripete fine. Ripete tutta la parte anche. Sì. Non solo quella che ha mancato, diciamo. Esatto. Vim lo nizgar ad leachar yiul ratzon, se non si è accorto fino a dopo yiul ratzon, come abbiamo detto prima, choser le rosh tefilah, torna all'inizio della Amidah. Nello specifico, il caso del Rosh Chodesh in Arvit è diverso. Uber Rosh Chodesh, im shachach yalev yavo be Arvit, be Mariv, non indifferentemente se è un giorno Rosh Chodesh o due, ben c'è Rosh Chodesh u Bet Yamin, ben c'è lo Yom Echad, non cambia se è un giorno o due. Keivan c'è amar Baruch Atah Hashem, dal momento che ha detto Baruch Atah Hashem della Berachah che conclude Amachazir Shechinato Lezion e non si è accorto, dal momento che ha detto il nome di Hashem nella Berachah, non deve ripetere né da Retze, né se si accorge dopo non deve ripetere la Amidah, e la Messayem conclude in maniera normale Amachazir Shechinato Lezion Vegomer Tefilato e conclude la sua Amidah e non ripete la Amidah se si è dimenticato Yalev Yavo nel Arvit di Rosh Chodesh. Perché? Ve'atam baze, il motivo per questa cosa, perché è differente l'Arvit di Rosh Chodesh rispetto a tutte le altre volte che bisogna ripetere o dall'inizio o da Retze in base a dove uno sta nella Midah. Il motivo è ve'atam baze mipnei shelo hayu mekadeshin et ha-chodesh balaila. Dipende dal fatto che l'inizio del nuovo mese non si annunciava mai alla sera. Perché Rosh Chodesh cos'è? È il momento in cui si fa il Kiddush HaChodesh, si annuncia il nuovo mese, si santifica il nuovo mese. Allora, quando si santificava il mese secondo la visione della luna, si doveva fare solo in orario diurno e non in orario notturno. E in collegamento a questa idea qui, quando Rosh Chodesh manchiamo l'annuncio, per così dire, nell'Amidah, cioè gli Alevi Avò, allora non lo dobbiamo ripetere. Non ripetiamo l'Amidah per questo. È un annuncio, quello di Alevi. Come fosse? Pensavo ci fosse più rigoroso Arvit, perché praticamente è proprio quando comincia la... Ma il Yalev Yavo non è un Kiddush, come Kiddush di Moedo di Shabbat, che fa sì che si santifica il giorno attraverso il Yalev Yavo. Il Yalev Yavo è un ricordo, un annuncio, un ricordo, non è la santificazione del giorno. Ok? Quindi è diverso. Non si dice Mekadesh HaRosh Chodesh, che sarebbe come Mekadesh HaShabbat o il Moed. Un altro contesto, non è un contesto simile. Allora perché è inserito in Arvit questo pezzo? Perché comunque è Rosh Chodesh, già da Arvit. Ma se abbiamo mancato a dirlo, allora visto che quando si faceva così non si annunciava la sera, allora non è abbastanza forte per farti ripetere l'Amidah. Ok? È abbastanza forte per far inserire, ma non per far ripetere se si è mancato. Naturalmente quello che stiamo dicendo di Yalev Yavo vale solo con l'occhio su Rosh Chodesh, sugli altri due casi Chol HaMoed anche formula, no, no, Abbiamo detto, quello che abbiamo detto vale per tutte le volte che si dice Yalev Yavo. L'unica cosa che è diversa è Rosh Chodesh Arvit. L'unica cosa che... Anche fuori dal Rosh Chodesh. Tutti gli altri... quello, allora, di nuovo, solo per chiarezza. Nessuna scusa, bisogna fare così. Bisogna ripetere. Tutte le regole di Yalev Yavo che abbiamo detto oggi riguardano tutte le volte che si inserisce Yalev Yavo nell'Amidah, tranne un unico caso. E cioè Arvit di Rosh Chodesh. Basta. Ora, la prossima halakha è se, nel caso simile a quello che abbiamo detto prima, Shachach be Rosh Chodesh o be Chol HaMoed Yalev Yavo be Shacharit, se la persona si dimentica di dire Yalev Yavo, se fosse Rosh Chodesh o fosse Chol HaMoed, per esempio nella tefilah di Shacharit. Shacharit, la Amidah di Shacharit, non ha detto Yalev Yavo. E non si è ricordato subito. Falpisce l'onizgar. Non si è accorto. Ad le'achar she'itpalel musaf. Sia Rosh Chodesh che Chol HaMoed c'è musaf. Quindi ha già finito tutta la tefilah. Ha già detto anche musaf. E si è accorto che a Shacharit non ha detto Rosh Chodesh. Perché cambia che ha già detto Musaf? Perché nel Musaf ha sicuramente fatto riferimento nella Tefilah a Rosh Chodesh o a Chol HaMoed, perché il Musaf è tutto centrato su quello, Mekadesh Israel Verashei Chodashim o Mekadesh Israel Verazmanim nel Chol HaMoed. Quindi comunque ha detto, in una delle Tefilot almeno, ha fatto riferimento. Nonostante ciò, Mikol Makom, Tzarich Lachazor Ulit Palel Shacharit, deve ripetere la sua Amidah di Shacharit, nella quale ha mancato il Yalev Yavo. Se è già passato l'orario di Shacharit, l'orario massimo, vima varzmana, allora nella tefilah di Mincha dovrà rifare una seconda Amidah. Dopo Mincha. Fa Mincha una Amidah per Mincha, una seconda Amidah con Yalev Yavo di nuovo per recuperare quella di Shacharit dove non ha detto Yalev Yavo. Come i casi che abbiamo detto generici di quando uno... Come quando uno non fa la tefilah proprio. Ha dimenticato, non ha detto la tefilah. Esatto. Yashlimena bitfilata mincha, la recupera, la deve ripetere nuovamente nella tefilata di mincha, come si spiegherà più avanti nel capitolo 21. Ora, una regola generale che riguarda anche quegli altri casi a cui faceva riferimento Alberto: bechol makom shutzarich lachazor ulitpalel, in ogni punto in cui la halakha dice devi ripetere una tefilah, come per esempio dimenticato Yalev Yavo, ti sei accorto subito, devi ripetere l'Amidah, bisogna attendere un minimo di tempo, una pausa, tzarich lehamtin, bisogna fare una pausa, attendere, che dei hiluch arba amot, il tempo necessario per percorrere 4 amot, che è un tempo minimo, qualche secondo, ma non concludere e subito attaccare senza alcuna pausa una nuova Amidah. Un minimo di attesa ci deve essere di distacco, esattamente. Ora, cosa succede se è l'officiante che ha dimenticato di dire Yalev Yavo nella sua tefila? Vediamo. Halakha Yud Gimel 13. Shaliach Tzibur, un officiante, Sheta'a bitfilata lachash, che si sbaglia nella Amidah a bassa voce, quindi nella sua Amidah personale, e no chozer umitpalel shenit, lui non ripete una seconda volta l'Amidah di nuovo a bassa voce con Yalev Yavo, mipenei torach hatzibur, per non fare disturbare, attendere tutto il pubblico, ok? Quindi preso in considerazione il tempo e il disturbo del pubblico, e quindi si appoggia alla tefilah che farà ad alta voce, e la somech alla tefilah sheitpalel bekol ram, si appoggia a quello per recuperare gli Yalev Yavo, la tefilah che fa alta voce, la ripetizione. Nel tuo caso potresti ripetere, noi ancora dobbiamo finire. Non è mica un pregio. Doppia. Non è un pregio. Achim ta'a b'shalosh berachot arishonot. Se avesse sbagliato durante le prime 3 berachot, venizgar kodem sheishlim tefilato, se lui ha fatto un errore, l'officiante, nelle prime 3 berachot, per esempio nel Mashivaruach, in queste cose qui che sono all'inizio dell'Amidah. Venisgar, e si è accorto ancora prima di concludere la sua tefilah, beh, inyan, in un contesto in cui cioè se lui torna a ripetere non recherà un grande disturbo al pubblico, allora lo deve ripetere. Cioè ancora verso l'inizio, se comunque sa che non ci sarà un disturbo, allora lo ripete. Ultima la sì. Visto che abbiamo parlato dell'ufficiante, non so se c'entra tanto con questa cosa, però qual è la domanda? La domanda è: quando c'è l'ufficiante che fa la tefillà, ecco, tipo stamattina abbiamo fatto Shacharit, no? Sì. Alcuni pezzi di Shacharit, tipo per esempio le Berakot prima dello Shema, di solito uno poi quando fa la tefillà da solo le dice, cioè le recita da solo. E sì, noi magari invece recitiamo le ultime parole o delle parole che sono. Bisogna recitare tutto, quello lo dice alta voce, ma bisogna dire tutte di le cose. Lo dobbiamo, no, quando stiamo al tempio, sì, lo dobbiamo dentro di noi, no, ripetere. Non dentro di voi, dire alta voce tutto, o bassa voce, come vuoi, tutto quello deve essere recitato. Ah, quindi. Dammi il libro, faccio l'esempio. No, io non ho capito la domanda. La domanda è perché sentire o devi ripeterlo? Allora, devi dire. Scusate ragazzi, solo un attimino. C'è la ditta a casa, c'è... No. Allora, noi diciamo così. Per esempio, durante gli Yotzer, no? Allora lì tu stai ad ascoltare o dici anche tu, utente singolo, privato, dici anche queste parole che l'officiante dice alta voce, oppure dici solo quelle che si dicono come risposta, come Kadosh, Kadosh, Kadosh. No, devi dire tutto. Se no come hai detto la tefilà. No, non dico che non è come non hai detto la tefilà, però se non sei in grado di dirlo, allora ti appoggi al sentire l'officiante, però dovresti cercare di iniziare a dire piano piano sempre di più finché riesci a dire tutto. Le cose che si dicono a alta voce sono una risposta, ma le cose che non sono una risposta comunque vanno dette. Grazie. Allora, ultima halakha, beyom. Beyom hatanit, in un giorno di digiuno, ben betanit zibur, ben betanit yachid. Qualsiasi tipo di digiuno, c'è sempre un'aggiunta del brano che è intitolato Annenu. Omrim bitfilata mincha, bibirkat shema kolenu Annenu. A Roma si dice anche a Shacharit. C'è un brano di Annenu, una richiesta speciale che si dice nel giorno di digiuno, vero? Sì. Ok. Se la persona non ha detto Annenu, vim shachach milomar Annenu, im lo nizkar ad leachar she'amar et Hashem ibirkat shmei tefila, se ha già detto Baruch Ata Hashem della berakha relativa a Shomea Tefila, nella quale si inserisce l'anenu, allora non torna indietro. E ino chozer ve'omer. Solamente fa un'altra cosa, non dovrà ripetere la midah, dovrà fare una cosa diversa. E la leachar she'agamar kol tefila, dopo che conclude tutta la tefila, Leachar Elokai Netzor, dopo anche l'ultimo brano Elokai Netzor, Leshonim Merah, eccetera, Kodem Sheya Akor Raglav, prima di muovere i piedi, spostare i piedi per fare i passi indietro, esatto, Omero dice Anenu, fino alle parole B'chol Etzara Vetzuka, fino alle parole conclusive, senza concludere di nuovo con la Berachah Baruch Atashem. Quindi tutto il brano senza Baruch Atah, e poi conclude Yehul Ratzon Imrefi, come si conclude prima di Oseh Shalom Bimroma. Però se ha già fatto i tre passi indietro per Oseh Shalom, e solo allora si è accorto di non aver detto Anenu, Vim lo nizkar ad leachar she'akar aklav, e ino omro od klal, non lo deve più dire, non lo deve ripetere e non lo dice per niente. Allora, un attimino concludiamo. Oggi è una lezione breve. Tutti devono ripassare bene.